Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siete sempre sulle frequenze di questa storica e mitica radio e siete in collegamento con la trasmissione canonica del giovedì notte dalle 24 in poi fino all'una circa. Stasera sarò abbastanza puntuale anche perché mi devo scusare in anticipo. 451 intersezioni, puntata di chiusura di questo anno 2015, oggi sarà l'ultima puntata dato che ormai i giovedì successivi vanno proprio a diciamo coincidere con la vigilia di Natale, il Capodanno, dunque chiaramente non sarò in radio perché sarei un malato di mente a venire in radio anche in quelle giornate. In realtà c'è qualcuno che lo fa e tutto rispetto, però io personalmente no. Dunque stasera chiaramente 451 intersezioni chiuderà diciamo l'anno 2015 ma non la stagione 2015-2016. Un saluto ovviamente caramente da Elisio Scarpa che conduce la puntata di stasera, un saluto anche a Max Macchia che ha condotto ieri e che ovviamente fa parte del network 451. In questo senso vi ricordo sempre il nostro blog noblog 451frammentisonori.noblogs.org, dove potete trovare tutte le notizie dei due spazi radiofonici, del mercoledì notte condotto da Max Macchia 451 frammenti sonori, del giovedì notte condotto da Elisio Scarpa, medesimo come 451 intersezione. Dicevo, mi devo scusare perché come sentirete dalla voce ho fatto qualcosa che di solito non faccio mai, cioè venire in radio influenzato, dunque con una voce un po' cavernosa che avrà sicuramente dei sussulti e delle difficoltà, ma spero di riuscire a condurre al meglio la puntata di stasera. Chiaramente cercherò di parlare il meno possibile perché faccio anche molta fatica a far uscire la voce, ma spero che esca il meglio possibile. Stasera dunque chiudiamo la stagione e siamo oltretutto vicini a questo santissimo e riconoscibile e riconosciuto Natale, questa festività che a me interessa ben poco. Oltretutto c'è l'altro grande parco dei grandi appuntamenti in cui uno si aspetta sempre di tutto, che è il Capodanno, un'altra presa in giro incredibile, ma ovviamente siamo di fronte a due scadenze ormai canoniche e ormai cicliche nella nostra vita, dunque chiuderemo anche noi come 451 intersezione con una puntata un po' delirante come facciamo spesso da anni all'interno del network 451 intorno alle varie festività che si rincorrono durante l'anno. Dunque faremo un Natale, diciamo una trasmissione natalizia un po' provocatoria, un po' delirante, che chiameremo Improvisated Music from Japan. Perché delirante? Perché ascolterete i brani, musiche, progetti straordinari dell'universo improvvisativo giapponese. Il Giappone è una terra che amo moltissimo dal punto di vista sonoro, ha prodotto soprattutto negli ultimi decenni delle cose incredibili sia nell'ambito dell'elettronica, del free jazz, dell'improvvisazione, anche della dance, ma anche diciamo di tutto ciò che riguarda la sperimentazione in tutti i campi, dal rock al jazz al noise, al punk, al post-punk, insomma chi più ne ha più ne metta. E la caratteristica giapponese è questa malattia, questa sorta di delirio nello sviluppo compositivo, nei suoni, nella composizione, insomma l'universo giapponese è unico, in questo senso molto delirante, deviato, distorto e malato, e questo è perfetto, diciamo, per anticipare un Natale che invece di solito deve essere abbastanza rassicurante, buonista. Invece col giapponesi sicuramente questo non avverrà, e ovviamente il titolo aprirà altri capitoli, perché il materiale è immenso nell'ambito della sperimentazione dell'improvvisazione giapponese degli ultimi soprattutto 20 anni, ed è tratto questo titolo, e stasera sarà il primo capitolo, dunque sicuramente svilupperemo nel corso del 2016 sicuramente un'altra puntata, ma forse anche due, anche perché, come dicevo ancora in precedenza, il materiale è immenso. E tratto questo titolo di stasera, Improvisated Music from Japan, da un cofanetto assolutamente imperdibile, ma purtroppo soltanto attraverso copie e vari giri strani si può avere questo materiale, perché questo cofanetto è composto da ben 10 CD, materiale musicale immenso appunto, con tantissimi autori, tantissimi progetti musicali, oltre a contenere 800 pagine proprio di bootleg come spiegazioni dei vari progetti, notazioni, veramente un cofanetto incredibile. È stato prodotto soltanto in 800 copie, dunque estremamente limitato, e ascolteremo alcuni di questi CD, alcuni autori che si muovono nell'improvvisazione più ardita e più sperimentale giapponese. Apriamo appunto da questo cofanetto uscito nel 2002 con un autore, Masahiko Okura, sassofonista e clarinettista nell'ambito dell'improvvisazione, soprattutto nel versante jazzistico, ma in realtà questo è un brano molto affascinante che si avvicina di più a certe dimensioni post rock, con un organo che mantiene una linea estremamente ipnotica, quasi minimalista, e una batteria molto molto incalzante. Un brano che forse può anche considerarsi un po' staccato dai lavori di Okura, ma ci andiamo a sentire subito. Si chiama DVVV, ovviamente è un sax improvvisativo dentro una struttura abbastanza assurda, ma a questo punto andiamoci ad ascoltare, anche perché la voce mi sta letteralmente sparendo e sto facendo veramente fatica. Partiamo dunque con l'ultima puntata 2015 di 451 intersezioni, Improvisated Music from Japan, capitolo primo, e partiamo con Masahiko Okura, DVVV. Buon ascolto. Ebbene, siamo passati da questa linea ipnotica e anche un po' deviante del grande Masahiko Okura con un altro personaggio in realtà che insomma anche lui non scherza in termini di genialità e di delirio compositivo. Si tratta, e abbiamo ascoltato, Kazuo Imai da Ephemera, sempre all'interno del cofanetto dello splendido lavoro storico ormai anche importante dal punto di vista di catalogazione, di riunione anche in termini collettivi, di contaminazione musicale, fra i vari artisti giapponesi che si muovono nella sperimentazione e nella ricerca sonora. Appunto dicevo, Kazuo Imai, che è un musicista che si muove sulla scena improvvisativa già da parecchi anni, non è proprio un giovanissimo, ormai ha 60 anni, e fa parte diciamo di tutta quella scuola di musicisti sperimentali post-guerra in Giappone. Già dagli anni 60 inizia a sperimentare delle cose da giovanissimo, proprio giovanissimo, alla fine degli anni 60, fino a poi a cominciare a elaborare progetti musicali dagli anni 80 e produzioni appunto da circa 30 anni. Kazuo Imai, che si muove nell'ambito della musica contemporanea, ha sentito questo groviglio di rami sonori, di questi archi che dissonanti, stridenti, stonati, che si incastrano in una dinamica assolutamente estraniante e alienante. Splendido lavoro, e da Kazuo Imai e insieme all'esordio con Masahiko Okura andiamo a trovare ora invece un personaggio che si muove più sulla scena improvvisativa jazzistica, anche se il termine jazzistico è un po' riduttivo nel campo di questi autori, è una parte, un linguaggio che viene assunto anche, e come lui, anche da altri, in particolar modo da questo prossimo autore che andiamo a presentare, che si tratta di Juni Rose, che è sassofonista ma anche percussionista, che ha lavorato con molti autori che troveremo poi nello stesso cofanetto, e anche con musicisti e sperimentatori nella scena europea e americana. Andiamoci subito a calare dentro un'altra atmosfera, un altro delirio sonoro, in questo caso dentro specificatamente più l'elemento e gli strumenti a fiato, che sono strumenti estremamente ricercati e sperimentati da molti di questi autori della scena improvvisativa giapponese. Partiamo con Kazuo Imai, anzi no, Juni Rose. Questo è l'effetto probabilmente della febbre che sale, ma dovrete scusarmi, è una situazione un po' emergenziale stasera. Juni Rose, il brano è Duo Chu, buon ascolto. Thank you. siamo ritornati in diretta, direi che è stato piuttosto devastante questo impatto e anche questo mix che abbiamo, anzi che ho operato, tendo sempre a parlare al plurale, in un'entità collettiva che in realtà esiste solo in parte, se non nella mia mente, e abbiamo fatto appunto, è continuo, vedete, proprio è qualcosa che non si riesce quasi a eliminare. Ho voluto fare questo mix fra questo personaggio che si muove più in un'ottica di improvvisazione, ovviamente più legata al jazz, all'impro radicale, saxofonista nonché percussionista di grande valore nella scena giapponese. Abbiamo ascoltato Junji Hirose da Duo Chu e abbiamo mixato questo elemento, anche in questo caso piuttosto pazzo, piuttosto delirante, bisogna comunque riconoscerlo, all'interno di free jazz, di improvvisazione elettroacustica. Ci siamo addentrati, diciamo, invece nell'universo più rumoristico e più delirante, noise veramente allo stato puro, dove il grande pazzo del progetto Ado O, il brano che abbiamo ascoltato si intitola Stereo Action Suite 2001, e in realtà è uno dei tanti pseudonimi di quel genio assurdo e malato di Taito Nazakato, che ha vari progetti con vari pseudonimi, musicista veramente assurdo e impossibile da catalogare, da inserire, spazia da tutti i possibili generi musicali che vi possono venire in mente, dalla contemporanea al rumorismo, al noise più assoluto, all'industriale, al dub. Fa delle cose incredibili, è molto amico e collaboratore di molti lavori anche di Oran Ambarshi, che è passato spesso all'interno di 451 intersezioni. E ora ci caliamo, entrando, diciamo, e abbiamo cercato anche di pensare la trasmissione anche nello sviluppo narrativo un po' col linguaggio di questi giapponesi, dunque veramente, se vogliamo renderlo proprio dozzinale, passando da palo in frasca, ma sempre dentro ovviamente sperimentazioni, genialità, pazzie e non catalogazioni di questi autori e di questi progetti giapponesi. Andiamo oltre e ci spostiamo radicalmente, cambiamo anche atmosfera, dalla devastazione, dall'impatto violento, anche disturbante e delirante di Ado Ho, ci spostiamo invece in un'atmosfera dove lo spazio, il silenzio ha una sua forma e una sua importanza, dove uno strumento antico importante come il Kyoto viene portato a parlare, a raccontare suoni e frequenze attraverso le mani di Yumiko Tanaka, e in questo brano intitolato Music for a Four and Half Tatami Mat Room Fragment. Ce l'andiamo a sentire e ovviamente rimaniamo nella pazzia giapponese. Thank you. E siamo rientrati in diretta, anche se in sottofondo si sentono dei suoni un po' strani di fondo, almeno io in cuffia, speriamo che non sia così anche fuori. Comunque abbiamo ascoltato un altro tipo di universo sonoro giapponese, cambiato completamente atmosfera. Ci siamo introdotti dentro lo spazio, il silenzio, il minimalismo portato all'estremo nella composizione, la disarticolazione anche melodica e ritmica di Yumiko Tanaka, che oltretutto è una donna che faceva parte ha fatto parte del grande gruppo importantissimo sulla scena musicale giapponese, non solo, dei Ground Zero. E ormai siamo verso il finale di questo primo capitolo, di questo primo assaggio, di questo universo splendido giapponese di Improvisated Music from Japan. E chiudiamo con un'atmosfera, una sonorità elettronica che viene espressa splendidamente con questo ottimo lavoro intitolato Two Woman di Aki Honda. Ce l'andiamo a sentire, con questo chiudiamo la puntata di stasera, anche perché appunto le forze ormai mi stanno mancando, e vi ricordo ovviamente che 451 Intersezioni ritornerà dopo il trenino di ferie e di feste il 7 gennaio, giovedì 7 gennaio, dalle 24 fino all'una, una e mezza circa come al solito. Chiaramente una buona notte da Alessio Scarpa e da 451 Intersezioni. Chiudiamo dunque la nostra puntata Improvisated Music from Japan, capitolo 1 di 451 Intersezioni di stasera, con il brano di Aki Honda, Two Woman. Buonanotte.